prova, 1, 2, 3, 4. Prova, 1, 2, 3, 4. Gianmarì! Ciao, buonasera! Buonasera, caspita, sì, uiuia! Com'è, com'è, sto, com'è? Bene va! Se non andive tu! Uiuia! Guarda, il foglio ce l'ho già pronto per te! Il foglio? Il foglio che mi ha chiesto! La fotocopia! Ah! Ascolta, l'abbiamo già ordinato con mia figlia. Vabbè, quello lì, vabbè. Però io ti ho fatto il foglio del... Ma non me ne metto più, ma ti giammani. Vabbè, già mi hai capito. Eia. Dell'altro mi serve adesso, però, Però... magari lo facciamo per l'altro, so. Io ti ho fatto quelli per il PMR e l'LPD. E già per fare la telefono, so. Sì, aspetta allora. Aspetta, già ti faccio la telefonata adesso, va. Va bene? Sì, io sono qua. Chi è? Chi è? Allo, decide che sta qui, oui. Oh, si è appena passato, Roggio Marì. Perché me l'ho messo troppo vicino alla bocca, adesso dovrebbe andare bene, vai. Una cannonata. Ok, scatto, due vacche sotto. No, io mi sto usando il presidente, sto usando. Ma va bene anche quello. Va bene anche quello, vai. È un bombo anche quello, va benissimo. Sì, vanno tutti bene, sono trattati bene tu, vai. Bisogna trattarli bene. Io non è stato mai educato Gisù. Non è stato mai toccato. E funziona benissimo. Finché va, tu vuoi andare. Ho ordinato anche un altro alimentatore. Con la 30 a 32 amperi, ho ordinato. Adesso ne ho tre di quelli lì. Sto usando quello dei cinesi io da 50 anche. Io tutti e due così. Mi vanno bene così per adesso. Ma infatti l'ho ordinato e l'ho attaccato solo a quello lì. E basta, ragazzi. Sull'altro c'è l'altro alimentatore che va bene ugualmente, ragazzi. Ma su questo è solo quello si è attaccato, va bene. Ma vabbè, 30 ampere, 30, 32 ampere già, questo è l'ordinato, capito? E questo qua che sto usando, capito? Infatti, ma voglia ce lo tengono. Gatta, guarda, a me mi fa vedere, gli ampere mi fa vedere quanto sta consumando, 2,7, 2,8 sta consumando, 2,7, 2,8, 2,9, 2,6. E questo è assolutamente... Ma 6 ampere, ma solo 6 ampere sto. No, quando sto mi modulando con questo 2,8 mi fa. Ma va bene, ecco, lì consuma poco, quello là, l'altro magari più, l'altro ampere si consuma così è. Eia. 7-8 ampere. Ma infatti, il mio fa lo stesso, capito? Il mio fa lo stesso, 7-8 ampere. Vanno bene, ehi. 7 ampere. Infatti. Oh, voglio già attaccato lo gavo, già attaccando. Aspetta, c'è qualcuno che voleva entrare, Gianmarì. Avanti che vuole entrare. Buonasera, ciao Tore, ciao Gianmarì. Avanti Tom. Ok, Mari. Andiamo, vai, andiamo. Avanti, signor Mari. Attaccato il cavetto, non c'è un cavetto. Se vuoi una fronte, almeno 10, ne ho Buonasera signor Marino, beh sei fisso, cordiale sta. Infatti tu stamattina a Bacchino l'ho sentito, ma io l'ho sentito benissimo. Per cui a te non arriva, ma è l'unico che ha a te, quella è la pazienza. Purtroppo qui non arrivava, Zero, sentiamo zero, radio zero. Va bene, tu che sei vicino e raccontami bene. Bene, vera, avanti, signor Sole. Hello, signor Marino, e allora tutto bene, sì? Tutto bene, grazie. Ha iniziato a piovere, ha iniziato a piovere. Ha dato la frustata, ha preso anche il mazzo. Stasera gli ho dato la frustata, i decisori da parte. Mi è rimasto un pezzettino, ma mi è rimasto poco di scena. Domani se non piove, l'ho passato e ho preso il terminato. Avanti il ministro. Bene, bene, avanti il sole per girare. Ok, meglio così Marino, meglio così, ama così a posto e puoi rientrare anche, va benissimo così, va benissimo, avanti Gio Marino. Infatti, allora domani a solo incontrare il trap Marino, almeno fai un po' d'allenamento adesso, i primi due giorni ti lotta, però dopo vago che bene, confermi. Ma non posso entrare ancora Giovanni, ancora l'esito non è arrivato, capito? Convinto che arrivava oggi, mi chiamavano oggi, invece negativo, non mi hanno chiamato. Se non chiamo, chiamano domani. Ho guardato il computer, mia figlia mi ha detto in lavorazione l'esito. Appena mi hanno l'esito, aspetto per il giorno, poi vado a lavorare. Ci vuole sempre la situazione della chiesa, da loro. Se no, non si può entrare. Ok. Bene, avanti sto. Fate così. Pazienza ci vuole, aspettare. Hanno già mani. Rudizini. Anda bene. È così, Avanti, avanti, signor Gio Maria. Vedete, questo periodo. Cazzo, stiamo andando male. Se le cose, questa roba se non si finisce. Più si va peggio è, e adesso a sta ragazza la questione seria è, quindi quattro persone non si possono stare. E la fregatura domani queste cose è l'orario, siamo lottati di notte, anziché alle 10, alle 11, se ti beccano è quello di casino. Se non viene casa mia potrei entrare a me piace, e avresti pure i vinti, non sono la mia responsabilità. Purtroppo è un casotto, ma come si fa? Più di 4, 5, 6 persone. La famiglia è chiusa, a casa di noi sono 50 persone e noi dicono uno, avanti so. Sì, ma ci sono onizi migliori, come ti vai? Vorrei dire culi gli altri. È sbagliato. Non c'è da fare, è sbagliato. E non hanno pensato a questo, che c'è famiglie che sono famiglie numerose e c'è in Parigi, ecco cos'è, quello non l'hanno pensato loro. Vabbè, o c'è da mangiare bene, è sempre festa, non è, per me è Natale è un giorno come gli altri, secondo me, pure ognuno per carità, si fa un po' di festa per i bambini e basta. Ma è andato per fatta quello tu, solo che questo è sano, che una può essere la famiglia, può essere anche di 5, 6, 7 figli e anche 8, ma lo sanno, solo quando si esce fuori non possono essere più di 4 persone, capito? Se tu vai a un ristorante e più di 4 non possono essere. Capito so come la faccio, però quello deve rientrare per forza, domani ci arrivo in ristorante, è 10 io, non è che ci vanno, se è 10 non devono andare via. Dico, se noi andiamo in pizzeria, il minimo saranno, se non vado cognato, il minimo ne vado via, da una e mezza, due. Capito, no, un ristorante, gli amici in casa, capito? Ora fai andare a 10, però è 10 non è a casa, il mio pizza non mangia a casa, avanti un po'. Infatti, ma no, è per il cenone, loro, per il cenone loro l'hanno chiuso, sia per Natale che Santo Stefano. E poco parola 24, tiri 4 persone a portare. No, no, non si sa nulla, questo lo fanno il 3, loro lo sanno, dal 3 si sa quanto, in quante persone possiamo rimanere fuori. Lasciamo stare persone, è l'orario sballato, è l'orario. Ma come si fa? Se vieni, lo fai, tua sorella, tua cognata, ma come anche la tua, alle 10 la devi fare fuori, non stiamo scherzando. Io fai 10:10 la sei nuovo a casa, non hai capito? E quello è... Quello è che loro devono mettere un orario sino a mezzanotte a fare fuori nel coso dei ristoranti. Non è che devono essere così, devono essere i ristoranti a tenerti in coso. Ecco cosa è. Oh, il fatto è che alle 10 le devono chiudere, alle 23, alle 22 devi essere già a casa. Alle 22 sono già le 10, sono sicuro, ma se io vado per andare via alle 10, o anche a casa di nuovo, mangio a casa, forse è meglio, vado. Avanti Gio Marino. Il macello è. Ma Marino potrebbe andare anche bene, capito? Lì forse sarà che, tanto non è che vengono tutti lì a cercarti, no Marino? Posso anche vedere, c'è la stessa e non viene nessuno in campagna. Chi viene? Che a te? Magari in città è brutto, che in città magari si ristorante eccetera non va bene, ma in casa sua, specialmente quando sei fuori, come fanno a sapere che sei aspettato in campagna? D'accordo con te, Giovanni, è l'orario sbagliato, non è io ai 10 per le persone e le mando via, le mando. Sono lì, devo cambiare l'orario, se no cambio l'orario, poi io a casa mia posso entrare a me piace. Sono 6, sono 12, sono 12, sono 20, scusa, come facciamo ogni anno, no? Ogni anno noi lo facciamo a casa, scendo a me cognate, siamo così via, siamo sempre una ventina, 20, 25, scusate, la capisco? E non è che io, è 10, io tutti a casa, no, non va bene così, dai, avanti so. Ha fatto già cosa è, che la notte se devi fare le cose, cioè non è cose, devi andare con altri familiari e cose, devi aspettare fino alle 5 del mattino. Come se rimane a casa fino alle domani mattina, vuol dire? Allora, alle 5 del mattino vai via, non ti boni di nulla. Ah, così andrà bene, così va bene, io già ne ho posto a casa, non è un problema. Io posto a casa già ne ho, c'è un appartamento sotto, figurati, è mobiliato con letto quanto. Andrà bene, avanti Giovanni. Pensa così già cambia tutto il discorso, vai. Cazzo, allora va bene, però, cazzo, è come si fa se uno fa sogno, e gli dà ragione, se uno fa bisogno di famiglia, cazzo, è un rebito, fino al disco di Manzano, non lo so, non credo che si resista. Ma purtroppo il coprifuoco è dalle 22 fino alle 5 del mattino. Io andando da me cognato sopra con tutti i canti te ne devi andare alle 5 del mattino. E non sei contento? Io no, che massimo era alle 2:30, 3 me ne so candente. Ecco, lo lì è un orario giusto, eh. È un orario giusto, 2:30, 3 va benissimo, un orario stabilisco, vai. Ok, avanti, domani. La questione, ma a me mi sembra che già cambieranno qualche cosa, senz'altro, perché è orribile, specialmente questi giorni di festa, però è anche da avere un po' di paura, perché sa, hai sentito come stanno correndo, specialmente in continente, magari qua no, la popolazione molto di meno del continente, delle grandi città che sono tutte ammucchiate in un macello, e lì è molto pericoloso, ma qua non penso che sia tanto pericoloso, così è Maria. Esatto, qui a Cerimene, insomma, basta non andare sullo storico, non bisogna andare sullo storico, se vai sullo storico devi stare attento, devi guardare dietro, a chi ne ho i vantaggi, infatti, che se sta facendo un salto con i vantaggi, per carità, va tutto. Infatti, e io già non vado ad andare in Kiwi. Magari supermercato, il coso, però in Kiwi non vado ad andare. Più che altro, mi faccio la spesa ai nonni, e ha già finito. Vabbè, anch'io la spesa faccio la tassa, no? Come scelta. Se lo solito per me sto per lavoro e basta, va. Ormai sto già le zone cattive ormai le conosco già, dunque c'è poco da scappare, avanti Giovanni. La questione seria, ferma così, ma bisogna pensarci a queste cose, Maria, bisogna pensarci a lui. Perché cazzo, da uno secondo la famiglia che sono, cazzo, ci cascano tutti, è un macello veramente. Cioè stare molto attento a queste cose, per cui la maschera ci vuole per essere tranquilli e lavarsi bene, sempre ogni tanto lavarsi bene le mani o disinfettarsi, e uno magari può essere anche più tranquillo, vai. Esatto, ho fatto uno un giorno che lavora in televisione, ha detto che era solo tranquillo e lui da dove lavora doveva prendere il treno e non si è preso il coso da in treno. Si è attaccato alla maniglia, logicamente, è andato a casa e poi è iniziato a avere un po' di febbre e l'hanno ricoverato, è rimasto 10 giorni ricoverato. Che io andiamo avanti. Infatti bisogna stare attenti, bisogna portare sempre la mascherina e non ti succede nulla, ecco cosa è. Magari è un peccato che si è abbassata la mascherina, non da qualcuno che era fumendi, non è andata a finire a Edo. Mascherina e bisogna sempre disinfettare le mani, bisogna sempre disinfettare in tasca, giù da fare, se vedete un bel bucazzone non è affidata, gente in vantaggio, gente che non crede a questa roba qui, oggi così. Oh Giulia, avanti Giovanni. Infatti, bisogna molto attenti, dai, sembra un giù, ma le cose sono serie, per cui ci vuole prudenza. Da ragione. Io vi cerco magari non lo so, guardate, noi che non abbiamo il supporto, chi vuole venire venga a casa, noi non lo siamo, siamo tranquilli, non lo so, cioè deve fare, quest'anno è così e bisogna stare attenti, no, non mettiamo il supporto, io ho già detto a mio figlio, non mi cercate, se volete venire venite voi, ma io non esco, e quando venite qua vi voglio avere tutti con la mascherina e se no non entrate in casa. E magari i tuoi figli ti dicono, ma guarda papà, che carnevale è febbraio, non è dicembre, avanti qua. Infatti, no, io infatti che cosa è? Bisogna vedere adesso come fanno il decreto in questi giorni, a fine settimana si dovrebbe vedere cosa fanno di decreto, perché i cosi, come ti si chiamano, che si dicono di no, qualche che gli hanno detto già di no, e cose che non vogliono fare queste restrizioni per Natale, ecco cosa è. E Conte ha detto bisogna fare così, se no nulla, se no me ne lavo le mani io, vide dei disegni. E gli altri hanno detto fai quello che devi fare, però dalla cosa hai detto di no. Adesso eia, hai compreso Giovanni? Adesso infatti vedrà si saprà qualcosa di preciso tra questi giorni là, cercato di fare qualche cosa di nuovo e vedrà un po' come il comportamento, come ci dobbiamo comportare per questo. Speriamo bene, è un macello qua, è un macello veramente, io che scendo giù adesso mi sto mettendo la maschera, anche se scendo qua a magazzino mi sto mettendo la maschera. Se vado a buttarci la mondezza si esco con le mascherine, per cui sono un po' protetto, vai. Però quando i miei figli sta a terra sono venuti a trovarsi ed erano tutti con le mascherine, e per cui un po' di tranquillità ci vuole anche, vai. Anche loro riescono a capire che sia per noi sia anche per loro, capito? Infatti, è così. No, io sto uscendo portare il cane, sto uscendo con la mascherina, sto uscendo. E quello sì, no, no, non ne faccio di discorso che se non esco con la... però dove passo io non è... gente no, non ce ne passa dove sto passando io. Sì, ma incontro una persona, però me la sto mettendo la mascherina. Dove mi vedo che non c'è nessuno, me la abbasso. No, in macchina magari, quando mi seguo in macchina, no, ma se lo sento si vuole che è pezzurone, capito? Cioè, me la scendo, me la metto alla sorriso, capito? Per cui, per senso di qualche negozio, è chiaro che se sono strieno, non si fanno entrare, in certi negozi c'è la guardia e per subito metto la mascherina. Come hanno fatto a capo, se la bevo la mascherina per stare, me ne sento io la macchina, me la dovevo mettere invece chiacchierando, mi sono dimenticato di mettere la mascherina, come se entrato alla porta e c'era la guardia a porta e si mette la mascherina. Sono stazione di bordo. E così via, no, ieri per dire che sono salita per stare segni, ce la bevo, anche se non mi fa respirare, poi c'è gli occhiali, io mi appaggiavo subito, mi sono dovuto togliere gli occhiali e camminavo senza occhiali, così mi dava fastidio, gli occhi non lo so, mi danno fastidio, però mi sono dovuto togliere gli occhiali perché mi appaggiano, dice che in macchina non me ne metto occhiali se non mi appaggiano subito. No, io ce li ho un pochino, mi si appannano. Allora l'ho messo in un punto dove non mi si affannano. Ecco, mangiano io gli batterei pesa così, però un pochetto mi si affannavano. Allora, non assai. Allora ho continuato a fare la spesa e boh. Ma è chiaro, no, se vado a fare negozio, chiaro, però in macchina non me ne metto, no? La massima in macchina non me ne metto. Magari prima di scendere mi metto la maschera, che, ecco, allora infatti piace il segno, ogni tanto mi metto gli erbo, mi ripulivo, mi ritorno a metto altri due minuti di nuovo a pannarsi. Allora ne sto tolto completamente e camminavo senza occhiali e mi dà fastidio il sole, però purtroppo forse maggiore è fatto così. Però quando sono tolto poi un altro negozio a LG, chiaro che me lo metterò gli occhiali, perché cioè, non è che non vedono, ma ormai sono abituato a avere gli occhiali e non mettevo gli occhiali, mi danno fastidio ugualmente, capito? Quello sì, Giovanni, un po' di fastidio lo dà, purtroppo bisogna stare così. Io infatti quando entro alla Conad, mascherina, grippicitti, appannati e più mi disinfetto le mani anche. C'è gente che entra senza disinfettarsele. Arrivate nel Durandarillo. No, io sto anche in macchina. Pure in macchina c'ero quella bottiglia di spray. Cioè, in macchina avevo rispetto, poi quando vado in un negozio all'ingresso c'è la bottiglia mi disinfetto, capito? Ce ne sono parecchie che le prendo, me le prendo, però non è giusto che sta così, perché dopo so che la cosa è la pressione non va bene, mentre quando si riveste c'è le mani disattate. Non si vede niente, si sembra. Lì ce n'erano due oggi, alla Conad, ce n'erano due che erano senza mascherina pura. E sì, da chi quella che comanda fuori, gli ha detto, o vi mettete la mascherina o andate via. Ciò vi chiamo la polizia. Ma ce ne sono andate, ce ne sono. No, basta chiamare le guardie, se lo sono le guardie, sono cavoli di regole, si vuole. No, no, bisogna rispettare le regole, sia per uno sia per gli altri, capito? E per cui la cosa si prende. È molta gente, non si può capire però, che magari non si sa mai, non si sa mai come sì, come non sì, ecco, si è più da sì. bisogna far vedere questa cosa. E a quelli bisogna buttare fuori subito. No, rimangono davanti alla Conad con una impullata di birra. Non va niente la ditta, punisci la mascherina e non venite lì. Adesso Davida che comanda ha detto, oh, con la mascherina siamo andati via da qua. Ah, ce ne sono andati. Dove bastava di più? Che se si sono interrogati, che altri si dicono, non prendo il cazzo. Cazzo, mi ha detto di tirare la mascherina perché si tira a bore, che mi dicono si tira a bore, capito? Ho visto ieri, però una persona sana cazzo, non pensa a questa mattina, sa come è successo a me, come è successo a me, che sono entrato a campo, come sono entrato a campo, ma chi sono andato giù, giù, andrei subito per la guardia mascherina, cazzo, sono venuto a andare giù, sono venuto a andare giù, e mi lascio in bocca, ma mi stavo dimenticando, e mia moglie, io facciamo il travestimento perché mia moglie era davanti, capito? A me so dove mi è successo, da Mauris, sono entrato da Mauris senza mascherina. La giubilata l'ho comprata alla cassa, ho detto me ne dia una, gliela pago dopo, mi tengo la del coso, allora l'ho dovuta mettere dentro, anche me ne sono quindi mette il gado. Una ne ho in macchina. Una nel magazzino e due ne ho, una su Borsellino e uno ne ho sulla cassina del Gibbosso, per cui io lo riceviamo e che io sempre a disposizione, ho in macchina o in tasca, tiro. Poi il magazzino ce l'ho, la pesa, a di fare al giorno, se non mi la bocco dai loghi, a fare il vale magazzino mi la bocco, capito? No, io ne ho due in macchina, io ne ho due ne ho. E una ce l'ho in stoffa, e ne sono tre in naggio, attaccato vicino allo volante, e compreso. E un naggio tre in naggio. Oh, sto adoperando una, che la cambio, e poi naggio un pacco 30 rugruscotto. Dico, una che cambio, è sempre vero in macchina, ma io ripeto. Uno in macchina, uno nel taschino, cazzo, uno in magazzino, già ne ho mascherina, capito? Anche in campagna, se lo puoi mangiare, anche in campagna, io sono più in campagna, sì. Mi ha giubilato un pacco, mi pare che sono 50 per le mascherine, un pacco me l'ha giubilato, c'è calcino. E vedi che quelli che avevo li ho buttati e me ne sono messi tutti nuovi, nuove, nuove. Da domani mi metto di nuovo, capito? Io sono andato a comprarli un pacco da 50, li ho comprati da Cidernet, 10 euro, un pacco da 50, 10 euro. E a voi a mascherina, e poi mi hanno fatto anche un po' anche mia figlia, che loro lavorano all'ospedale, per cui, capito, mi avevano dato un po' anche loro, e a voi a mascherina che faccio io. Se voi mi diciamo un'organi non conviene, cazzo, almeno due o tre giorni la puoi tenere, dopo la devo buttare e prendere la nuova. E infatti è così. Adesso la cosa, speriamo che finisca più presto questa cosa. Quando faranno il vaccino, poi bisogna vedere con il vaccino quanto se si elimina tutto il virus. Vediamo un po' ma Marino si è rientrato. Marino! Retratto. Ok, è un caso questo, non è il vanno. Speriamo bene, non lo vuoi, siate tranquillo, ma poco ci spero. I vaccini si stanno lavorando bene, stanno lavorando. Voglia bene, avanti, giovani. Grazie, che la questione, ma speriamo che, mi sembra che stia abbassando la questione, speriamo che non sia abbassata. Però vedo poco di essere ricoverata, grazie, Maria, un bel. Ha sentito quella donna incinta che ha fatto rito, cazzo, e lei l'ha contagiata, cazzo, e stava andando a mangiare il bambino, cazzo, il bambino non sa niente, anzi la femminista, Ah, è 128. Eia. Ma è, non è, è lieve lì. Contagio lieve ha preso. No, pesante. Per fortuna ha preso quello leggero. Ah, ce la sta cavando qua con gli antibiotici. Ce la sta cavando. Il bambino, no, la bambina non la sta dando molto a mangiare lì. No, che gli sta dando a mangiare. Sta andando a mangiare, ha capito così. Oh, no, io l'ho visto oggi al telegiornale, ha detto, dice che non è di quelli, è sintomatica. Già è quella allora, già è quella allora. Già è quella. E due ce ne sono state. Un'altra che il bambino la bambina era morta, è nata morta, mi sembra. E lì era contagiata. Ma l'ha preso lì il contagio, l'ha preso in ospedale. L'ha preso. Infatti, questa è mia sorte perché l'ha presa lui, infatti. Aspetta, avanti Maria. Come c'è l'otto? Ma più o meno c'è la però. Boh, non te lo so che dice, hai gettato un attimo o devi dire subito? Qua sta piovendo, Basta, dove forse è forte, ma sta scuzzando. Avanti, Giovanni. Ogni tanto va mordire in gira, Stiamo vigilando, adesso non lo so, adesso da un'oretta come fa che io non lo so pure, perché non so che ci guardo, Ah, sì, mi ha posto con gli occhi meno vinti, che ne vado che mi sta chiamando la signorina, evidentemente c'è un po' da picchito e teniamo, dai Maria. Grazie la chiacchiera fine Maria, saluto di casa, dai, e giustamente ci siamo domani, c'è tutto a Brogo, altrettanto attore in famiglia e ci sentiamo, ok Maria? Sì, tutto ricambiato al centro Giovanni, tutto ricambiato anche a te in famiglia, ok, a domani si coincide, avanti sto. Ok, ciao Gian Maria, ci risentiamo domani. Ok. E buona cena e tutto. Andate. Beh. Riprendi. No, comunque non sta piovendo qua. Mi ha fatto una scorciata fine boh. Sono qualche nuvole frantuzzi. Ogni tanto scusa, ma qua sta continuando, ho capito. Ho cambiato la sua stanza, però adesso è finta se mi vende. Va bene, dai. Non fare nulla. Non fare nulla. Avanti, stop. Sì. Altri due minuti e poi ti lascio. E dove è quale sto usando? Non so. L'ultimo? No, quello vecchio. Lo so io che sto usando. Sono seduto con l'RP4. Guarda, sto lontano, almeno sono 50 cm di lontananza. Così sta fischiando. Così va bene, dai, giusto? Eia, così va bene, lascialo così. Se funzionava cosa di una fucci. Va bene. E io te lo dico, sta fischiando perché sono gli apparecchi a fianco. E per quello. E se non c'è apparecchi, lo metto al massimo e avrà il suo coso. Va bene, va bene. E allora oggi sta a posto, sì. Insomma. Sei a posto. È tutto canto. Ecco preso, è così. E anche l'impice oggi mi ha fottito. Non ho capito, anche lì? L'impice mi ha fottito. Invece di darmi il gozo giusto, come ti ha dato l'ambasciato, mi ha abbassato ancora. Piano piano sta scendendo, oggi, ma è il giorno. 30 euro in manco, so. Quei 30 euro saranno per persone che non hanno mai lavorato in casa sua. Se stanno campando la luce, le persone, non fa. Quest'anno me l'hanno abbassata non la pensione ma la tredicesima me l'hanno abbassato di 30 euro in manco da chi se l'hanno abbassato ogni primo ritirato così allora il primo del mese ogni anno sempre non si chiede sotto qua c'è il GMR sta sempre parlando va. Sempre tutto il giorno sempre quelle di ieri. Ho trovato la persona, l'ho detto la persona, l'ho detto. Adesso vedono, guardano cosa fare. Noi sentiamo loro, loro sentono anche noi, guarda. L'unica cosa è che sentiamo il collega, se ti va poi tutto qua. Bella, bella. No, io li ho bene, bella. Pari, dove mi giocci a me? Ti devo lasciare. Ci risentiamo domani, se tutto andrà bene. Ci risentiamo domani. Ok, ciao signor Marì. Buona cena e tutto quanto. Alle prossime. Ciao, ben sentito domani, buonasera anche per te. Torno in casa, beh. Ok, faccio una fattorata, così anch'io. Ciao. Ciao signor Marì.